Ma il titolo è nato dopo averlo aver scritto la graphic novel, da una frase che io pronuncio quando, appena arrivato a New York, ero completamente ero molto emozionato e mi innamoravo di tutte le donne che vedevo per la città e soprattutto dei loro zigomi. E a questo proposito, io anni prima, già nel 1998, avevo dipinto un quadro che titolava Mi innamorai di uno zigomo, proprio perché, poi io naturalmente ho esagerato nel libro, però tendevo a innamorarmi di questa parte del volto femminile, e quindi ecco, è un titolo abbastanza ironico. Ho capito. Per dire poi che io sono andato a New York alla ricerca del successo internazionale come artista, ma poi mi lasciavo trascinare poi anche da altri tipi di avventure o disavventure. Capisco benissimo, perché appunto, come sai, anch'io sono stato a New York, anche se io ero molto affascinato invece dai menti. Vedi, ognuno c'ha la sua c'ha la sua parte anatomica interessante, però sicuramente New York è un posto dove si trovano tanti zigomi e anche tanti menti e non solo, insomma. E dunque questa graphic novel è il racconto della tua avventura a New York? Beh sì, diciamo che è nata in un momento in cui era cominciato il lockdown. Io ero abbastanza depresso e ho iniziato a ripensare invece ai momenti più felici di quando da giovane, poco più che ventenne, ero andato in quella città pieno di speranze, di sogni, e quindi ho raccontato, sì, proprio tutta la... ho condensato in questa graphic novel tutte le cose più assurde che mi sono accadute in quegli anni in cui ho vissuto là. No, noi non ci siamo incrociati per sbaglio, fra l'altro, perché per sbaglio, sì. No, perché poi fra l'altro a New York, come tu ben sai, in quegli anni lì ci si conosceva tutti nel mondo dell'arte, nel senso che essendoci una, cioè 10 inaugurazioni ogni sera, l'incontrare altri italiani era quasi obbligatorio, insomma. E dunque Cattelan l'hai conosciuto in queste istanze? C'era lui a New York in quel periodo? Sì, sì, c'era. Tra l'altro io ero andato nel novembre del 2000 ed ero andato praticamente insieme a Massimiliano Gioni, che avevo conosciuto, lavorava a Flash Art, mi aveva intervistato, no? Comunque ci vedevamo spesso a Milano, e lui era andato là a sostituire Bonami come coordinatore, cioè direttore della sede di Flash Art a New York, e io come artista. E quindi sì, mi è capitato anche di conoscere Cattelan, a parte che lo vedevo sempre in inaugurazioni, ma poi a un compleanno, forse non sarà il suo, quello di Massimiliano, me l'avevano presentato, però io diciamo che non è scambiato proprio poche parole, nonostante fosse il mio mito, perché comunque però io ero abbastanza timido. Poi anche Cattelan non è proprio almeno per quello che ho visto io non era proprio così espansivo, quindi però ho conosciuto poi un sacco di artisti italiani, infatti è strano che non ci siamo incontrati, magari ci siamo visti, ci siamo visti ma non ci conoscevamo. Esatto, no, è abbastanza probabile, poi appunto l'overlap è abbastanza poco, però sì, era un periodo interessante quello di New York, i primi anni due, fine anni 90, primi anni 2000. Ma non mi ricordo con chi ne parlavo, forse con Giacinto di Pietrantonio, in cui dicevo che New York in quel periodo per me era veramente il periodo, e lui mi ha detto no, guarda Gabriele, questo qua sulle classiche riflessioni di chi ha raggiunto ormai, ha superato i 40 anni e quindi vede il periodo di quando c'era 20-30 anni con questa nostalgia, quindi magari invece anche New York è bella anche adesso. Io però mi ricordo che sì, cioè, c'era molto fermento, poi mi ricordo una mostra stupenda vista da Gagosian di Damien Hirst, quella con Imn, la scultura del bronzo, del corpo anatomico di bronzo. Certo, e c'ero all'inaugurazione, anzi ho fotografato Salman Rushdie all'inaugurazione di quella mostra. Beh, allora siamo stati lì. Ci siamo mancati di poco. Sì. Comunque io non sono d'accordo con Giacinto, perché appunto io venivo da Londra, io tutti gli anni 90 ero a Londra, a un certo punto mi sono trasferito a New York e obiettivamente avevo 20 anni sia a Londra che a New York, ma New York era un'altra cosa, cioè su questo proprio non c'è dubbio. Il mondo dell'arte di New York era molto più aperto, molto più allegro, con molte più possibilità di fare cose, secondo me. Ah ok, vedi, allora forse qualcosina era... rispetto ad oggi. Poi il fatto di che adesso abbiamo 50 anni e prima ne avevamo 20, su questo la nostalgia lì c'è poco da fare. Penso che succeda a tutti, ma io sono convinto che cioè, non lo so, se rimanevo a Casalecchio di Reno probabilmente sarei stato un po' meno nostalgico di New York, su questo non c'è dubbio. Sì, hai ragione, sì. No, poi io mi ricordo che io ho conosciuto anche diversi sia artisti che anche galleristi là che poi sono emersi. Tra l'altro, se vuoi ti racconto anche qualche aneddoto. No, assolutamente, io sono qui per in realtà. Allora, non tutti compaiono nel romanzo, perché ha dovuto poi scremare. Però mi ricordo, per esempio, che avevo conosciuto Michel Maccarone, che poi è diventata una gallerista molto famosa, e che aveva appena aperto in un buco nell'Lower East Side, e tra l'altro lei non aveva i soldi per un appartamento, quindi lei viveva nello spazio della galleria, e per andare a fare la doccia, non mi ricordo da che parte, non so se andava in una piscina pubblica, comunque insomma questa era la situazione esatto. Michel Maccarone. No, infatti anche questi aneddoti denotano anche la passione con cui alcune persone facevano quel mestiere. Sì, assolutamente. E poi tra l'altro ebbi anche la possibilità di iniziare a lavorare con lei, pensa un po', perché io avevo conosciuto un artista che mi aveva in realtà contattato, perché il mio allora gallerista Pasquale Lecese fece una pubblicità su Flash Art International con il mio lavoro. Questo artista canadese, che però si è trasferito a New York, mi aveva contattato e gli ho detto: guarda, sto venendo a New York, mi ci eravamo visti, e sua moglie lavorava come assistente per Michel Maccarone, e quindi a un certo punto Michel Maccarone mi aveva chiesto: senti, ma io perché non faccio qualcosa così? E io però avevo nel frattempo conosciuto Daniele Balice, che adesso è un noto gallerista parigino, che ai tempi lavorava come direttore di una galleria a Brooklyn, e avevo già in programma una personale lì, e quindi avevo fatto la personale lì. Però vedi, avrei potuto iniziare con Michel Maccarone. Vabbè, che non è detto niente, magari non avrei combinato nulla con Michel Maccarone, però vedi, comunque io dal nulla, non conoscevo nessuno, sono arrivato là e ho conosciuto, tramite uno che mi aveva scritto, ho conosciuto Michel Maccarone e uscivo a mangiare con lei, capito? Sì, no, infatti. Tra l'altro una pazza squilibrata, Michel Maccarone. E non siete rimasti in contatto adesso? No, ogni tanto poi l'ho rivista, ci salutavamo, ma non abbiamo mantenuto i rapporti. Però io mi ricordo lei che guidava la macchina, io su con quest'altra artista, e lei che insultava pesantemente, bestemmiando tutti i cinesi che incrociava per la strada, proprio. Una pazza. Ecco, in questo periodo, fra l'altro, di Asian hate, è meglio non raccontarlo questa cosa. Sì, hai ragione, perché adesso è tra l'altro un problema serio. Sì, infatti, è diventato un problema serio, anzi. No, infatti questa cosa mi dispiace molto, perché poi a New York ho ancora un paio di amiche asiatiche, e appunto mi dispiace sentire ste storie. Ma pensa che, non so come mai, ma io i miei migliori amici che ho a New York sono un italiano e poi una ragazza giapponese e un ragazzo giapponese. Io ho fatto, ero iscritto all'Art Students League, non so se ne hai mai sentito parlare, cioè perché comunque a New York più di 3 mesi, 6 mesi non ci puoi stare senza un permesso. E in questa Art Students League ho incontrato Federico Solmi, che adesso sta diventando una superstar, capito? Sta facendo... Sì, l'ho conosciuto anch'io, sì. No, uno molto in gamba, che anzi salutiamo, essendo lui bolognese prima o poi ritornerà. No, molto bene. Io penso che l'ho incontrato in un negozio a Brooklyn, vicino allo studio, che stava cercando, anche io stavo cercando dei pennelli, e lui mi ha detto: ma tu sei Gabriele Picco? Sì. Allora ci siamo conosciuti, però non sono mai andato nel suo studio, mi sa, però abbiamo chiacchierato, l'ho visto a qualche cena, ma veramente è bravissimo, cioè sta... Sì, sta... Anche perché adesso gli va bene, comunque sicuramente ha fatto dei sacrifici per rimanere là con tutti quelli che stanno lì. Sì, lui addirittura è stato pure arrestato a JFK una volta, gli hanno messo le manette e l'hanno rispedito in Irlanda, dove era andato a fare un weekend con la fidanzata. Pensa un po' che... Sì, no, anche lui sicuramente, anzi, la volta che viene a Bologna poi ce lo facciamo raccontare qua a Coxo Spaziale delle avventure newyorkesi di Federico, che giustamente lui è rimasto, ma anche tu sei tornato un sacco di volte, vero? Mi dicevi. Io sì, è stata la prima volta nel 2000 e poi 3 mesi. Poi nel 2003 mi sono fatto fare un visto da giornalista da Flash Art, e quindi sono rimasto là un anno. E poi l'anno dopo sono ritornato grazie alla borsa di studio del New York Prize, premio New York, che veramente quello lì era un sogno, perché non so se sai che cosa consisteva. Sì, certo, anzi, fra l'altro mi ricordo una volta, mentre partivo io, ho incontrato Stefania Galegati il fidanzato che avevano appena vinto loro con Simone Berti, esatto, avevano appena Simone vinto Berti. Loro la stiamo parlando del 2000, perché ti davano, io avevo un appartamento a Manhattan, e sai, un appartamento a Manhattan costa un sacco di soldi. Poi avevo un ufficio con la scrivania, telefono, internet gratis, ok? Poi avevo uno studio dove dipingevo, che era all'interno degli studi della Columbia University, quindi potevamo usufruire anche degli open studio della Columbia. E poi aspetta, non finito, e poi c'era un assegno di $4,000 al mese. Madonna, fantastico. Adesso non credo che sia ancora così l'hanno generosa. Ridotto, l'hanno infatti. L'hanno ridotto. Però veramente un sogno, fantastico. Sì, sì, un sogno. Vabbè. E poi comunque sono ritornato ogni anno, tornavo da 1 a 3 mesi. E poi nel 2012 sono tornato là e sono stato 3 anni, mi sono fatto il visto d'artista, sono rimasto da 3 anni fino al 2015. Fantastico. E dunque, qual è la canzone che ti ricorda maggiormente questi anni di New York, che la mettiamo? Ah, fammici pensare. Io metterei sicuramente qualcosa dei Velvet Underground, perché la prima volta che arrivai a New York nel 2000, ero stato ospitato da una persona che non conoscevo, gentilissimo, un astrofisico della Columbia University, e lì ascoltavamo i Velvet Underground, mi è rimasto impresso questa cosa qua. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Torniamo, perché questo è nel libro. Ok, siamo tornati. Dicevi di questo che ti ha invitato, cioè no, come hai conosciuto questo che ti ha ospitato a New York? Ah sì, certo, allora, l'astrofisico della Columbia, che adesso so che lavora al CERN in Svizzera comunque. Io stavo studiando all'Università Storia dell'Arte a Milano e in coda a un esame ho conosciuto questo ragazzo, abbiamo parlato in New York, lui mi ha detto che aveva un fratello che viveva là perché insegnava, era un ricercatore alla Columbia, e quindi mi ha messo in contatto e lui gentilmente veramente mi ha ospitato a casa sua. Ma per quanto tempo? Tipo? Io in teoria dovevo aspettarmi una settimana e poi nel frattempo avevo dovuto trovarmi un appartamento, ma non lo trovavo e quindi sono rimasto là almeno 2-3 settimane. Lui mi ha trovato un appartamento, mi ha dovuto buttare fuori. Ah certo, alla fine ti ha dovuto buttare fuori lui, all'italiana sì, proprio. Mi ha dovuto buttare fuori lui. Ma io cosa che avevo trovato all'inizio? Tramite il mio gallerista Pasquale Leccese mi ha detto vai da questo mio amico artista nel Lower East Side, che ai tempi era veramente un posto proprio brutto, pericoloso. In questa casa occupata, io me lo ricordo ancora, salire i gradini di questa casa occupata che cedevano, delle assi che cedevano, e senza riscaldamento, è presente in inverno come la temperatura. Sì, esatto, meno 15 senza riscaldamento, e fantastico. Meno 15 senza riscaldamento, quindi avevo questo letto con un metro di coperte che mi copriva, non ho chiuso occhio, anche perché poi sopra la mia testa c'era un gigantesco amo metallico, perché lui, questo artista, campava, sopravviveva pescando e mangiando i pesci dell'Hudson River. Quindi, quindi anche questo immagino che anche questo lo racconterai nella... sì questo è tutto nella graphic novel, e lui quindi faceva tutte opere che erano quasi tutte le opere legate alla pesca, e sulla mia testa c'era questo amo che cioè io spaventavo dal freddo, e questo amo qua, io non ho chiuso occhio la mattina, ho preso, me ne sono scappato. E ti capisco. Sì. Senti, ma torniamo al tuo essere scrittore, cioè come ti è venuto in mente di pubblicare un romanzo, anzi più di un romanzo, cioè com'è fatto? Cioè, perché non è facile essere, cioè, no, innanzitutto non è facile essere un artista visivo che comunque in qualche modo campa, e nello stesso tempo appunto uscire come scrittore, perché intanto come sai ci sono migliaia e migliaia di scrittori che non riescono a pubblicare, no? Per cui, lo so, cioè, devi essere anche bravo a scrivere alla fine, no? Sono stato sì, bravo, fortunato insieme, soprattutto anche testardo, perché ma devo dire che poi nella prima parte della mia carriera molto fortunato, molto bravo forse, ma soprattutto molto fortunato, nel senso che mi ha dato subito tutto bene. Perché, e comunque io ho sempre voluto sia scrivere che disegnare, che mi è sempre interessato entrambe le cose, quindi io volevo fare sia lettere che l'accademia, poi ho fatto solo lettere, ho detto l'artista posso farlo comunque, e quindi io ho sempre scritto. E come ho fatto? Allora il primo romanzo l'ho mandato a tutti gli editori, e ricevendo naturalmente un sacco di rifiuti, poi ho avuto la fortuna di conoscere un editore che purtroppo è mancato recentemente, Luigi Spagnol, che era anche appassionato d'arte, quindi frequentava l'ambiente dell'arte, io l'ho conosciuto, quindi mi ha detto mandami, se hai scritto questo libro mandamelo, e mi ha mandato e lui era piaciuto. Però vorrei dire una cosa, perché detto così a un aspirante scrittore può dar fastidio, cioè vedi, ha conosciuto, però io nel frattempo avevo mandato anche ad altri editori, e dopo qualche mese mi rispose De Michelis, che era allora la Marsiglio, anche lui morto da poco, per farmi pubblicare il libro. Ah ecco, per cui l'avresti quindi, comunque pubblicato. L'avrei comunque, io tra l'altro non ebbi il coraggio al telefono di dirgli che avevo già firmato un contratto con Ponte alle Grazie, e quindi andai a Venezia per conoscerlo. E lui mi disse, guarda, mi è piaciuto molto il tuo libro di esordio, lo pubblichiamo. Gli ho detto, guarda, però io ho firmato un contratto. E mi fa, oh, perché sei venuto? Perché volevo conoscerla, volevo... Hai fatto bene, infatti. Sì, poi mi ha cestinato il mio libro e mi ha salutato. Certo. Però no, questo per dire che da perfetto sconosciuto, io ho mandato il libro e mi aveva chiamato. Poi il secondo libro, lì però... Non è che è stato così semplice, perché l'ho rimandato agli editori, rifiuti, poi l'ho riscritto miliardi di volte, ho cercato un agente, ho trovato l'agente che si è appassionato, e l'agente mi ha fatto pubblicare Mondadori. Ah ecco, perché però sì, poi adesso per esempio io ne ho scritti altri romanzi, uno non sono riuscito a pubblicarlo, adesso uno l'ho appena finito, poi ho pubblicato la graphic novel, però vedi, nel senso che bisogna sempre continuare a insistere. Assolutamente. No, cioè, no. Non è che chi pubblica è perché è sempre tac, scrivi e pubblichi. No, chi pubblica magari ne pubblica due, e su quei due poi ce ne sono dietro cinque che sono stati rifiutati. Ma infatti questo è un messaggio implicito per tutti quelli che tirano della gran merda addosso a quelli che hanno successo. Ma io e te lo sappiamo benissimo che tutti quelli che hanno successo comunque si fanno un culo quadrato spaventoso prima di arrivare in qualunque posto proprio, per cui io tendo sempre ad avere molto rispetto anche magari verso persone che comunque fanno cose che non mi piacciono, insomma. No, infatti anch'io, quando ero più giovane tendevo magari a essere, invece adesso no, tanto di cappello, perché chi arriva a certi livelli è perché se l'è meritato comunque. E dunque è stato facile pubblicare la graphic novel adesso che ormai sei uno scrittore affermato? No, il mondo delle graphic novel è abbastanza particolare. Prima di tutto non sono uno scrittore affermato. Prima di tutto, nel senso, ho pubblicato due romanzi, ma io per esempio ne avrei voluto pubblicare un terzo che però mi hanno rifiutato, quindi adesso speriamo con il quarto. La graphic novel, diciamo che essendo un po' la fusione tra la scrittura e anche il disegno per cui sono conosciuto, ho trovato Post Media Books, che è una casa editrice che si è sempre occupata di arte contemporanea e adesso si sta aprendo anche alla graphic novel. Tra l'altro è appena uscita un antenato della graphic novel di Gastone Novelli, e quindi insomma si sta aprendo anche a questo tipo di cose. Bella sta cosa. Sì, bellissima. Tra l'altro Gastone Novelli io non sapevo che avesse fatto una cosa del genere ed è uno dei miei artisti preferiti di quegli anni. Fantastico, l'utilizzo anche la parola all'interno dei dipinti, insomma c'è questo interesse, non credo che sia un fumetto puro, Perché poi magari alcuni dei nostri ascoltatori non conoscendoti più di tanto magari non sanno che comunque anche come artista stai facendo delle cose incredibili. L'anno scorso, quando è stato che hai fatto questa scultura enorme con un miliardo di coni gelato? È stato nel 2018, 3 anni fa. Anzi, probabilmente la mia mostra più impegnativa è quella che però mi ha dato anche più soddisfazioni, dove ho esposto questa scultura che derivava in realtà da un disegno che avevo realizzato a 24 anni. Ho esposto la mia primissima personale a Milano ed era una silhouette di un omino sdraiato sopra quelli che sembrano dei chiodi, ma che in realtà poi vedevi sotto c'erano le palle di gelato, quindi ovviamente ho trovato facchini gelati, e la mia idea era quella di realizzarlo in formato gigante, e tanto è vero che poi sono riuscito questo fakiro si adagia su 57.000 coni gelato. Sono 57.000 coni gelati reali, giusto? Reali, sì, io ho contattato questa azienda che produce dolciumi e anche coni gelato e gli ho scritto una mail e gli spiegavo un po' l'opera e gli ho chiesto se mi sponsorizzavano, e loro mi hanno risposto dopo qualche giorno e mi hanno sponsorizzato, quindi è stato anche quello, mi hanno mandato questi bancali pieni di 57.000 coni gelati. Cioè, è incredibile questa cosa. Ma che fine hanno fatto questi coni? Sono stati mangiati dalla coni, popolazione? La scultura è rimasta lì fino a un anno fa. Anche quando è stata chiusa la mostra, però il fakiro è rimasto là. Poi purtroppo il soffitto era rovinato, quindi pioveva dentro e alcune parti si sono sciolti praticamente. E alla fine hanno deciso di smontare l'opera e di buttare via tutti i coni. Quindi adesso se tu vai in questa stanza trovi un braccio, una mano, un piede. Ah, ok, per cui è così, sì. È finita così, a mo' di performance. Sì. Sì, diciamo che il comune mi sta dicendo che stavano cercando prima del Covid uno spazio dove esporlo in maniera permanente. Adesso siamo un po' tutto fermato, vedremo in futuro, sarebbe bello. Adesso bisogna trovare uno sponsor che fonda i coni in bronzo e 57.000 coni in bronzo. No, guarda. Ci ho pensato tante volte, ma in realtà devono rimanere così, anche perché comunque io, siccome li hanno fatti poi apposta per me, ho chiesto se era possibile e loro hanno modificato gli ingredienti in modo tale da renderli meno soggetti all'attacco degli agenti atmosferici. Quindi in un ambiente chiuso, come può essere una galleria, un museo, comunque una stanza protetta, possono durare tantissimo. Ah, fantastico. E dunque un bambino ne ha avvannato uno ed è morto? No, non erano tossici, io l'ho anche mangiato, non erano tossici, mancavano alcuni ingredienti, quindi no, piccato no, sono stati, a un certo punto sono entrati dei piccioni che l'hanno avvannato. A quel punto io cosa ho fatto? Ho contattato uno di questi che si occupa di scacciare i piccioni, ho messo di notte, lo mettevo un richiamo che riproduceva il verso di un'aquila tipo, e quindi faceva fuggire tutti i piccioni. Wow, incredibile anche questa storia. E dunque dove troviamo il tuo libro? New York era piena di zigomi. Sito di Post Media Book, o se no in tutti i rivenditori online tipo IDS o Amazon, ma e cioè, poi però so che anche in diverse librerie Feltrinelli i miei amici l'hanno comprato in libreria. Fantastico. E come stanno andando sì. le vendite? Adesso che siamo sulla radio ne venderai 1 miliardo. Ah certo, ma sinceramente non lo so, non mi è ancora arrivato un assegno milionario, quindi dubito che sia un best seller. No, ma guarda, quando si tratta di editoria, per me è già un successo essere riuscito a pubblicarlo, e mi fa piacere quando qualcuno mi scrive che l'ho apprezzato questo, perché alla fine, soprattutto in Italia, ma un po' nel mondo, ma soprattutto in Italia, chi scrive lo sa, che proprio perché è difficile pubblicare è un traguardo riuscire a farlo. Poi se uno riesce anche a vendere va bene, però è veramente qualcosa di eccezionale. Sì, diciamo che non si fanno gli scrittori per soldi, su questo non c'è dubbio. No. Io ti ringrazio tantissimo e ti faccio in bocca al lupo con tutto quanto. È stato bello averti, e mi piacerebbe fra l'altro averti di nuovo magari dal vivo una volta che passi a Bologna per raccontarci bello, qualche altro aneddoto su te, New York, i piccioni e quant'altro. Molto volentieri, grazie a voi per avermi invitato e un saluto a chi ci ha ascoltato. Grazie Gabriele, a presto. Ciao. Fedra, siamo io e te. Ti è piaciuto Gabriele Picco? Sì, mi è piaciuto. Poi anche questo essere io e te, come ai vecchi tempi, mi ricorda che ai vecchi tempi, cioè ai tempi in cui anche tu stavi a New York, se non ricordo male, avevi anche tu il pallino per una parte del volto nei ritratti, il mento. Sì. E mettendo insieme i tuoi lavori e quelli di Picco, magari facevate dei bei ritratti. Dei bei ritratti, come li chiamiamo? Non lo so, dei collage di facce senza occhi e senza naso, solo zigomi e menti. No, effettivamente è un peccato che io e Gabriele non ci siamo conosciuti a New York, secondo me ci saremmo divertiti. Ma sai quanto avrebbe sofferto per il tuo abbandono, per amore? Meglio così, infatti, non rivanghiamo gli anni 90, anche perché sennò mostriamo tutta la nostra vecchiezza. Sì, anche perché stavo risistemando il mio curriculum e sono tornate fuori le mostre che fecimo insieme, tramite cui ci conoscemmo. Infatti, ti ricordi quelle cose antiche del secolo scorso? Il Sesto Senso nel 2001, pensa un po'. Ma dimmi una cosa, quindi il Coxo è il 356esimo. Sì. E siamo io e te come ai vecchi tempi, con un grande bacione alla Chiara, ma le menzioni ci sono? Le menzioni ci sono, infatti guarda, adesso faccio anche così. L'angolo della menzione. Che spero non ti abbia rotto i timpani. Ma un pochino, ma sono abituata al momento, dopo le prove che abbiamo fatto nel fuori onda. Comunque io comincio col dire, martedì 6 aprile alle ore 18 continuano le Idee Talks alla Galleria Astuni. Dopo Maurizio Nannucci, in conversazione con Luca Beatrice, martedì è il turno della curatrice e critica Fabiola Naldi, che racconterà il lavoro di Jonathan Monk, a cura di Lorenzo Bruni, diretta sul Facebook della Galleria. Io invece, la mia menzione invece non è esattamente una menzione di qualcosa che succede immediatamente, ma è un bando. Si chiama Premio 1026, e il Premio 1026 fa ripartire idealmente le lancette dell'orologio della stazione di Bologna, ferme alle 10.25 del 2 agosto 1980. Il contest, istituito dalla Fondazione Bottega Finzioni con il patrocinio dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e il sostegno del gruppo Cergas, Orteco SRL e Euro 3 SRL, ha l'obiettivo di ricordare la vita, le passioni e i sogni delle vittime della strage del 2 agosto, cercando di riallacciare simbolicamente i fili e i percorsi spezzati quel giorno e facendoli proseguire attraverso la facilitazione di percorsi di studio e ricerca. La call è aperta a tutti gli studenti europei ed extraeuropei fino ai 26 anni che abbiano un progetto originale in ambito culturale, scientifico e artistico, dalle opere d'arte a progetti di ricerca a testi e saggi. I partecipanti non hanno tantissimo tempo perché potranno proporre il proprio contributo fino al 25 aprile, per cui avete poco più di 20 giorni. Per questo siamo andati, siccome appunto è la call è interessante, naturalmente nel nostro blog troverete tutti i link per andare a scoprire che cosa dovrete fare, ma siamo andati a parlare con Michele Cogo, che è il direttore di Bottega Finzioni, che appunto ci racconta un po' meglio tutto il progetto. Siamo qui con Michele Cogo, che oltre a essere un illustre scrittore è anche il direttore della fondazione Bottega Finzioni, che sta bandendo un concorso che dovrebbe interessare ad alcuni di voi, che si intitola un premio che si intitola Premio 1026, che ha a che fare con le 10:25 del 2 agosto 1980. Michele, raccontaci tu che cos'è questo premio. Sì, buongiorno, intanto grazie dell'invito, insomma, a parlare del premio. Dunque, quello che abbiamo pensato con Antonella Beccaria e Bottega Finzioni in generale è di cercare di fare memoria attraverso un meccanismo che sposta in qualche modo, che rilancia in avanti, ovvero è importantissimo, come è stato fatto finora e continuare a fare, ricordare ciò che è successo il 2 agosto in stazione Bologna. Ci piace l'idea di provare a raccontarlo attraverso un rilancio in avanti, ovvero quel giorno sono state spezzate le 85 vite e ciò che stavano facendo quelle persone. Proviamo a simbolicamente rallacciare dei fili, ovvero quelle persone avranno avuto dei sogni, dei desideri, qualcosa che stavano percorrendo, qualcosa che, verso il quale puntavano, qualcosa che sognavano, e ci piace l'idea di provare attraverso una borsa di studio che è stata finanziata dal gruppo CER e da altri sostenitori, con l'idea appunto di sostenere la ricerca quest'anno, ad esempio in ambito artistico. Abbiamo pensato, siccome purtroppo tra le vittime del 2 agosto c'era anche chi era appassionato d'arte e studiava quella disciplina, abbiamo pensato quest'anno concentriamoci su quello, proviamo a raccogliere progetti di ricerca in quell'ambito che possano essere sostenuti, quindi di persone sotto i 26 anni che possano riprendere il percorso simbolicamente di qualcuno che in quel giorno ha perso purtroppo la vita, il filo è stato appunto spezzato, interrotto, e proviamo a rilanciare in avanti attraverso appunto delle borse di studio. Diciamo che gli argomenti dei quali si dovranno occupare coloro che verranno sostenuti la borsa di studio non sono necessariamente legati alla strage, all'argomento dello stragismo, sono legati alla materia, alla disciplina, quindi in questo caso alla storia dell'arte o alle arti, anche alle arti applicate. Ma infatti devo dire che naturalmente il bando si trova nel vostro sito, che è bottegafinzioni.it, se non sbaglio. E ci tenevo, perché così magari intanto i nostri ascoltatori, se sono davanti a un computer, possono già andare a vedere il bando. E è per ragazzi sotto ai 26 anni, per cui studenti a livello internazionale, per cui non ci sono distinzioni. Ci ho dato un'occhiata e mi sembra un bando molto aperto, nel senso che non ci sono vincoli di nessuna natura, semplicemente un bando come borsa di studio di ricerca, giusto? Cioè, che cosa vi aspettate da questi studenti? Diciamo che ci aspettiamo, abbiamo lasciato, visto che quel giorno in stazione c'erano tutte le fasce di età e le provenienze in tanti paesi del mondo, abbiamo deciso di lasciare aperto, siccome è una ferita che riguarda tutti quanti, non solo Bologna o l'Italia, abbiamo pensato di lasciare il bando aperto a tutti, anche studenti esteri e anche a tutte le fasce d'età, comprese quindi anche le scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare come classi volendo, presentando un progetto di ricerca che naturalmente va scritto in poche pagine, massimo 10 cartelle, dicendo qual è la cosa che si vorrà fare grazie al sostegno di questa borsa di studio, o anche grazie al sostegno di questa borsa di studio, perché può andare la borsa di studio del premio 1026 a integrazione di qualcuno che magari fa già un dottorato oppure o altre forme di sostegno che vuole approfondire. Faccio un esempio: se c'è uno studente che studia l'illustrazione vittoriana e deve passare del tempo in Inghilterra, per ora no, ma magari più avanti, quando sarà possibile, in qualche modo a studiare dal vivo alcune opere, ecco, presenterà il suo progetto di ricerca in poche pagine. Se la commissione lo sceglie, potrà usare la borsa di studio per sostenere queste sue ricerche. Naturalmente dovrà restituire alla fine del periodo di ricerca un qualcosa, un elaborato, che sia un libro, un saggio, un articolo, un'opera d'arte, qualunque cosa che, diciamo, era stata preventivata dal progetto. E questo è il primo anno che c'è questo concorso, oppure è già stato fatto? No, questa è la prima edizione, infatti è un'edizione di prova, però ci tenevamo a provare adesso subito con discipline umanistiche, artistiche, visto anche come, insomma, l'anno che abbiamo trascorso tutti quanti è stato difficile per tutti, però diciamo che la parte artistica, cinema, storie delle arti, tutto quanto è stato piuttosto, le materie umanistiche abbastanza massacrate, quindi volevamo partire da lì. E mi sembra un'ottima idea. Vogliamo ricordare quando è la scadenza per questo bando? La scadenza è il 25 aprile, entro il 25 aprile, che è una data facile, crediamo, speriamo per tutti da ricordare. Entro quella data devono arrivare i progetti di ricerca all'indirizzo indicato del premio, del bando, che è quello di Bottega Finzioni. Poi verranno inviati tutti le candidature con i progetti di ricerca o di sviluppo artistico alla commissione, che è formata da storici dell'arte, antropologi, storici, eccetera, che sceglieranno il premio, il premio vincitore, che verrà sostenuto con una borsa di studio di 3.000 euro e 10 premi invece con buoni in acquisto fino a 250 euro in libri presso una libreria. Fantastico. Io a questo punto, per chi non vi conosce, ti chiederei anche di raccontarci che cos'è Bottega Finzioni, perché il bando è naturalmente è patrocinato dall'Associazione Familiari delle Vittime, se non sbaglio, giusto? Sì, il bando 1026 è stato sviluppato con l'Associazione Familiari, con Paolo Bolognesi. E Bottega Finzioni è una fondazione narrativa, almeno così vengono chiamate all'estero. Fino a qualche tempo fa Bottega Finzioni era una società, anche se in realtà non aveva nessun scopo di lucro, perché tendeva a fornire formazione sempre gratuita e finanziata o con fondi pubblici o privati, nella convinzione sempre più, che cosa che aumenta, che fornire formazione gratuita sia professionale sia invece in ambito narrativo per le aree di difficoltà, dalla parte professionale alza il livello qualitativo dei partecipanti e quindi della formazione stessa. Invece la formazione narrativa in ambito per le difficoltà permette di realizzare dei progetti laddove invece il mercato non lo consentirebbe. Ecco, quindi è una fondazione che mira a raccogliere fondi per sostenere la formazione in ambito narrativo sia professionale sia sociale. Benissimo, io ti ringrazio moltissimo, non so se c'è qualcos'altro che volevi aggiungere rispetto al bando. No, direi che abbiamo detto tutto quanto. Appunto, ricorderei i sostenitori, che trovate anche sul importante, perché speriamo, si sono impegnati per 3 anni a sostenere questo bando, quindi è giusto anche ricordarli, il gruppo CER e gli altri sostenitori che sono trovati appunto sul sito di Bottega. Fantastico, io ti ringrazio moltissimo e naturalmente invito tutti i creativi a partecipare a questo bando importante, la cui premiazione sarà proprio il 2 agosto di quest'anno. Sì, ecco, questo è giusto dirlo, il 2 agosto di quest'anno verrà fatto il primo premio e anche gli altri, quelli rispetto ai buoni d'acquisto in libreria. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo con tutto. In bocca al lupo, grazie anche a voi, grazie a te. Ma è davvero, davvero interessante questo progetto, poi in un momento critico come questo, in cui è proprio il tema della trasmissione dei saperi e delle esperienze è estremamente forte, e insomma un progetto come questo poi mi ha colpito per il fatto che appunto come dicevi tu, il titolo è 10:26, quindi un minuto dopo. Ed in realtà, nell'ascoltare il fuori onda nel chiacchierare con Michele Cogo, è emerso chiaramente come il focus del bando in realtà non sia proprio finalizzato a ricordare nello specifico la tragedia, quanto a guardare all'oltre. Se quella tragedia non fosse successa, che cosa potrebbero aver fatto queste persone? Dico bene, Stefano? Sì, esatto, esattamente quello. L'anima del progetto è esattamente quello, per cui è un modo per continuare quella che erano i loro sogni, le loro passioni, eccetera. Perciò, giovani entro i 26 anni, compiuti o no, questo poi lo vedranno loro, quelli che sono nati sul crinale. Esatto. A me è capitata tantissime volte. Anche a me, devo dire. Perciò giovani, 26 entro i 26 anni, inclusi o meno, scopritelo voi. Mi raccomando, anche se sono pochi giorni, approfittatene, perché c'è spazio anche per quel progetto che tenete nel cassetto. Ecco, ci stava bene. E dunque è ora di ascoltare una canzone, giusto? Cos'è che ci fai ascoltare tu? Io sentivo i Bootsy Collins, che non mi sembrano male, mi ricordano un po' Zappa e qualcun altro. Ah, per cui piaceranno la chiara verde, azzurra? Di che colore è la chiara in aprile? If I could take you away to a better day, oh how I love would turn out okay. And if you just listen to me, we could vanish in our sleep, and together just you and me. Well, if they could understand the position they put us in, if we can only be real about the way that we feel, then we could fly away to another time and space. Wow. We could love, love in our own rejected way. If I could just do to you all of the good things to do, we could squeeze the berry juice out of love. And if that ain't enough, I'll set a fire to your funky stuff. Woman, I'll put the fire out with more love. Daddy's got a real need for you. I know you got a thing for me too. Wherever, whoever, or whatever, we gotta do what we got to do. We gon' keep on trucking. We ain't just standing on the verge. We gon' give love all we can muster. Every time we hit the earth, I'd like to tell the world where to go. If they don't like our show, I'd like to kiss this old world goodbye. And if you just listen to me, we could vanish in our sleep. And together, just you and me. Hang around, baby. I got more to say. Ooh, baby. That's right. To do, we could squeeze the You're like water on a desert beach, and I'm so thirsty for you. Dobbiamo salutare Fendra. È già finito il coxo. È già finito il coxo. Il coxo passa, che è una bellezza quando ci si diverte. E allora facciamo un bel saluto alla nostra Chiara Blu, che doveva essere blu per questa volta, per la prima volta in questa puntata, ma lo sarà nella prossima. Lo sarà nella prossima. L'appuntamento, come al solito, è sempre alle 7 di sera di lunedì, sempre su Radio Città Fujiko 103.1. È proprio quello. E poi su www.coxospaziale.blogspot.com per tutti i link e anche le registrazioni delle nostre simpatiche voci. Io ero Stefano W. Pasquini. E io ero io o ero qualcun altro? No, oggi sono io, per cui oggi sei tu, dai, ritorniamo allora ai vecchi. Sono la Fendra Boscaro. Ah, ecco, fantastico, no? Perché l'altra volta ti eri pronunciata Boscaro e hai lasciato spiazzati un po' di persone. Ma perché non lo sai che quando vivevo a Bologna era tutto tranne che Boscaro? Era Boscaro. Esatto. Ma non è che un mio vezzo, è semplicemente che se dicevo Boscaro a Bologna capivano Fuscaro. E quindi ho cominciato a mettere l'accento laddove sentivo che lo pronunciavano gli altri nativi. A quel punto lo spelling era sempre giusto. Ho capito, un po' come me a Londra, che dovevo chiamarmi Stefano oppure niente. That's it, my dear. Ciao, a presto. Ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. In the car with item on the last day of the tour, we talk about rebuilding our childhood's latches pulled off of the doors. I thought about the first girl I kissed was a girl I wanted to kiss, but not the first girl I wanted to kiss, you know. Barefoot in the mud path on the backside of the house. If I was a little older, I'd hold your hand and not feel any doubt. Now think about the time that I miss being a kid, feeling like this, feeling like I was in an abyss right now. Girl, I want to kiss, but I'm not sure if she wants to kiss, but at least I can ask without feeling like shit.